Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di cucina e vi presento innanzitutto il libro di uno storico, Felipe Fernandez Armesto, è uno storico inglese che ha scritto Storie del cibo, pubblicato da Bruno Mondadori, 308 pagine, 28 euro, tradotto da Irene Annoni. L'autore vuole colmare con questo libro una lacuna, ritiene che quella del cibo sia una storia finora sottovalutata e quindi intende offrire, come scrive, una prospettiva autenticamente globale e considerare la storia del cibo come una tematica della storia universale, inseparabile dalle altre interazioni degli esseri umani tra loro e con il resto della natura. La storia del cibo, secondo lo storico, si sviluppa attraverso 8 rivoluzioni: l'invenzione della cucina, che parte con il fuoco naturalmente, l'attribuzione di un valore simbolico e sociale al cibo, poi il passaggio alla pastorizia, all'agricoltura, la nascita della gastronomia e del lusso in cucina, l'alimentazione interculturale, la scoperta dell'esotico, la scoperta dell'ecologia e infine l'industrializzazione del cibo. Oggi lo storico lamenta che la cucina è a rischio e infatti si fa lui stesso cronista di quelle che ritiene siano alcune tendenze molto pericolose, che sono anche delle tendenze familiari, per esempio l'irruzione nella nostra vita quotidiana del forno a microonde. Sentiamo i guai che può combinare questo strumento, probabilmente familiare a tutti. La solitudine del frequentatore di fast food rappresenta una regressione della civiltà. Il cibo sta subendo un processo di desocializzazione. Nell'era del microonde, la cucina casalinga sembra condannata. E se le persone smettono di consumare insieme i pasti, la vita familiare è destinata a frammentarsi, poiché, come disse una volta Carlyle, se l'anima è una sorta di stomaco, che cos'è la comunione spirituale se non mangiare insieme? Non bisogna sottovalutare il potere di mutare la società del forno a microonde. La sua ascesa è stata straordinariamente rapida. Sospetto che l'allarme suscitato da questo trend sia, almeno in parte, giustificato. Malgrado le sue carenze, il forno a microonde è assai apprezzato e per due ragioni, invero, non molto edificanti. Innanzitutto, per comodità. È un modo rapido e pulito di scaldare pasti precotti e preconfezionati. Parziale conseguenza di ciò è l'offerta sempre crescente sul mercato, nell'Occidente moderno, di intrugli, insapori e ultraelaborati. Naturalmente non è tutta colpa del microonde. Il dispositivo a onde elettromagnetiche in realtà è parte di quella che potremmo definire cultura della pappa. Storicamente vi è una tendenza propria delle società urbanizzate a richiedere cibi a preparazione istantanea in varie forme. L'ascesa del microonde è conseguenza e causa insieme del loro rinnovato successo ai giorni nostri. L'altra grande virtù di questo elettrodomestico agli occhi dei suoi fautori è il potere liberatorio. Si può scegliere di riscaldare qualunque piatto pronto a disposizione. Non occorre fare alcun riferimento al gusto della comunità. Non c'è matriarca o pater familias che abbia la facoltà di decidere per tutti. Nessuno, in casa, deve più dipendere da un altro. Inoltre, non viene meno l'esigenza di mangiare alla stessa ora o di sedersi alla stessa tavola. Questo nuovo modo di cucinare è controrivoluzionario in modo sconcertante. Inverte la rivoluzione che aveva reso il mangiare un momento di socializzazione e ci riporta a una fase presociale dell'evoluzione. Se state mangiando carne in questo momento, vi sconsiglio la lettura del libro Se niente importa, perché mangiamo gli animali? Di Jonathan Safran Foer. È pubblicato da Guanda, 366 pagine, 18 euro ed è tradotto da Irene Abigail Piccinini. Questo libro è molto netto nella sua tesi, è quasi un manifesto vegetariano. L'autore ha da poco avuto un figlio e quindi comincia a indagare come e che cosa mangiano i bambini e da lì inizia una lunga inchiesta sull'allevamento degli animali negli Stati Uniti. Un'inchiesta che giunge appunto alla drastica conclusione che gli allevamenti intensivi provocano enormi sofferenze agli animali e colossali danni ambientali e questa scoperta o questa conclusione rafforza nell'autore la sua convinzione di diventare vegetariano. Vegetariano un po' distrattamente lo era stato anche prima, a periodi alterni, invece dopo questo viaggio negli allevamenti degli Stati Uniti la scelta diventa una scelta apparentemente irreparabile, irreversibile. Il libro dunque è molto netto nelle sue conclusioni, ma è anche un libro molto ben scritto e molto interessante, singolare. È quasi un'opera a metà tra il reportage giornalistico fatto attraverso visite o tentativi di visite a questi impianti, incursioni notturne, interviste, testimonianze magari di allevatori che cercano di evitare inutili sofferenze agli animali, quindi a metà tra il reportage giornalistico e la vera e propria riflessione filosofica sui danni che infliggiamo agli animali. Proprio per la sua indubbia qualità, questo libro ha suscitato un grande dibattito nei paesi di lingua inglese. Alcuni hanno fatto notare all'autore che, per esempio, in Europa e nel Canada la situazione degli animali d'allevamento sia molto migliore di quanto non avvenga negli Stati Uniti. Altre riflessioni sono state più di sostanza. In fondo, hanno notato molti osservatori, la questione è semplicemente morale o di sentimento. Come ha scritto per esempio Paul Levy sul Wall Street Journal, dovrebbe bastare dire: non mangerò più qualche cosa che abbia una faccia e una madre, inutile perdersi in tanti particolari e in tanti viaggi negli allevamenti. Un altro recensore, questo sul Financial Times in un articolo comparso proprio la settimana scorsa, sottolineava alcuni aspetti criticabili del libro di Foer, per esempio il fatto che è molto difficile andare a fare questo tipo di discorso alle popolazioni povere che non potrebbero avere speranze di nutrirsi meglio se non con cibo allevato in questo modo. Un'altra argomentazione, sempre ricordata nell'articolo del Financial Times, risaliva addirittura a un letterato inglese di 250 anni fa, Samuel Johnson, il quale scriveva che se non allevassimo gli animali da cortile per ucciderli, gli animali da cortile non esisterebbero per niente. Obiezione che si può fare, ricorda l'articolo, è il fatto che forse è meglio non vivere che vivere nelle condizioni in cui questi animali molto spesso vivono. Ma insomma, conclude questa recensione, per darvi un po' il senso del dibattito che ha suscitato: ho cominciato a leggere questo libro dopo un delizioso pranzo a base di carne, nel frattempo ho finito il libro e ho cambiato la dieta, non mangio più animali, questa nuova mia dieta non mi piace affatto, Foer ha diminuito il mio piacere nella vita. Ma sfortunatamente, conclude Simon Kaper, il suo argomento convince, quindi dovete scegliere voi fra i piaceri della gola e il rigore dell'etica. L'argomento che Foer pone è quello dei diritti degli animali, sui quali ci sono molti interventi in questi ultimi mesi. E gli appassionati di questo tema segnalo un libro recente che ha scritto un prete anglicano, Why Animal Suffering Matters. L'autore è Andrew Lindsay e il libro è stato pubblicato da Oxford University Press, 416 pagine, €16,99. L'autore qui è molto drastico anche lui e ritiene che ci si debba legare a due principi, quello di non infliggere sofferenze ad animali se non per il loro bene, quello di evitare di infliggere sofferenze agli animali per puro scopo di divertimento o di sport. Una posizione anche questa che ha fatto molto discutere, per esempio un filosofo di orientamento liberal conservatore come Roger Scruton ha criticato questo libro dicendo che in questo modo si rischia di imporre una visione del mondo e un sistema di valori che rispecchia delle convinzioni che possono essere diverse da quelle che ogni individuo intende perseguire. Quindi, come vedete, un dibattito aperto. Un libro che su questo tema aveva anch'esso sollevato una grande polemica negli Stati Uniti è In difesa del cibo di Michael Pollard. L'editore Adelphi, 252 pagine, €19, il libro è tradotto da Giovanni Luciani. L'obiettivo di questo libro è difendere il cibo e la cultura del mangiare, ma difenderlo da che cosa? Da un lato, scrive l'autore, dalla scienza della nutrizione, dall'altro dall'industria alimentare. Insieme è stata costruita, scrive, un'ideologia nutrizionista che ha diffuso tre perniciose leggende. Ciò che importa non è il cibo ma i nutrienti, c'è bisogno di esperti per decidere cosa mangiare, lo scopo del mangiare e promuovere la salute fisica nel senso stretto del termine. E invece no, secondo Pollan, infatti, bisogna mangiare purché sia cibo vero, con moderazione, soprattutto, aggiunge, mangiate vegetali. Non c'è nulla di male, scrive, a mangiare un po' di carne, purché non sia il piatto principale. Ed è meglio mangiare cibi freschi piuttosto che prodotti trasformati. E poi il libro spiega naturalmente come procedere secondo queste linee. A un certo punto, verso la conclusione del libro, Pollan indica come modello anche quello di Slow Food, un modello che a suo parere pone il tema della consapevolezza della posta in gioco lungo tutto il cammino del cibo dal terreno alla tavola. Mangiare lentamente, secondo l'autore, significa mangiare con piena conoscenza di causa, non per coazione, ma per libera scelta. Una cucina può essere anche teatro di un giallo, anche piuttosto ambizioso, è quello di Monica Ali, una scrittrice inglese di origine dal Bangladesh. Il libro si intitola In the Kitchen, è pubblicato dal Saggiatore, 594 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Grazia Gatti. In questo libro siamo nelle cucine dell'Imperial Hotel, un edificio vittoriano in pieno centro di Londra, dove traffica un campionario multietnico e multiculturale, un rappresentante del quale sarà ritrovato ucciso. E così il libro, anzi la cucina dell'Imperial Hotel, diventa anche una sorta di metafora del mondo del lavoro inglese. E a questo punto il confettino. Restiamo in tema con il libro di un'illustratrice svizzera, Valérie Lozat. Il titolo è Sapore italiano, piccole storie di pranzi domenicali, pubblicato da Zoolibri, 16 euro. Qui troviamo una coppia pugliese emigrata da tempo in Svizzera che mantiene le abitudini culinarie e anzi alimenta un commercio di prodotti alimentari dell'Italia. Le bellissime immagini ci fanno gustare, grandi e piccole, le tradizioni della cucina italiana, che qui vengono illustrate anche da alcune ricette. Vi ricordo che il 23 aprile è la giornata mondiale del libro, del diritto d'autore, e in questa occasione a Roma, al Teatro Quarticciolo, il Teatro di Roma organizza una serata di lettura condivisa, come la definiscono, intorno al tema del viaggio dal titolo Parole da viaggio. Si tratta di un incontro al quale possono partecipare tutti e ciascuno potrà leggere un brano da un romanzo scelto a piacere all'interno di una bibliografia che viene offerta, che viene proposta, di 150 titoli. Ultimi arrivi. Vi segnalo per la narrativa un giallo in costume di una serie di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione, Le indagini della grande scrittrice inglese Jane Austen. La serie è di Stephanie Barron e questo volume è Jane e lo spirito del male, pubblicato da Thea, 326 pagine, 12 euro, tradotto da Alessandro Zabini. Per la saggistica vi segnalo invece due tra i maggiori filosofi del Novecento, Leo Strauss e Alexandre Courbet, che discutono su un tema del quale non possiamo facilmente liberarci, il tema della tirannide. È il loro libro, è Sulla tirannide, pubblicato da Delphi, 398 pagine, 48 euro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo adesso a tre mostri sacri del teatro italiano. Il primo è Arnoldo Foà, classe 1916, uno dei grandi protagonisti del teatro, del cinema, della TV del nostro paese, ma anche regista, pittore e scultore. Dà di sé una definizione coraggiosa nell'autobiografia di un artista burbero. Questo è il titolo del libro pubblicato da Sellerio, 206 pagine, 13 euro. Si parte dall'infanzia, dal clima vissuto da giovane appartenente alla comunità ebraica, un clima che sfocia poi naturalmente nelle campagne razziali del fascismo. Poi Foà fugge verso il sud e dopo la guerra comincia la carriera all'Eyar, la Rai di allora, e lì comincia come annunciatore, anzi come capo annunciatore e scrittore, e poi il ritorno al teatro e la lunga carriera che conosciamo. Nel libro si parla anche dell'intensa vita sentimentale che ha regalato ad Arnaldo Foà ben quattro mogli, e uno spazio viene anche dedicato a un'esperienza particolare, quella dell'incisione per la Phonit Cetra di una serie di capolavori della poesia italiana. Sentiamo dal libro di Foà un breve passo che si riferisce proprio al modo in cui si era preparato a leggere Leopardi. Potrei dipingere il quadro del primo giorno che mi sono accostato a Leopardi in previsione delle registrazioni. Vincenzo Cardarelli venne nel salotto della mia casa, imbacuccato con soprabito, cappello e sciarpa di lana, benché fossimo in un tiepido aprile. Il poeta, in veste di direttore della serie leopardiana della collana, era venuto per sentirmi nella prova della prima poesia che dovevo incidere, Il sabato del villaggio. Non ero potuto andare io da lui perché avevo la febbre per una stupida influenza primaverile. Comincio a leggere e lo vedo quasi subito negare dolorosamente con la testa, con gli occhi chiusi e le sopracciglia aggrottate in segno di scandalosa disapprovazione. «Non va?» domando. «No, assolutamente no. Perché?» «Perché Leopardi... Leopardi è musica. Leopardi è Mozart. Non capisco cosa dovrei fare.» Apre le braccia in segno di incapacità. «Mi faccia capire come dovrei dirla.» «No, no, io non sono un attore, non sono un dicitore.» Non si preoccupi, l'attore sono io e se lei mi dà un esempio, io so come devo fare. E allora comincia con la sua voce orrenda, ma con un'espressione celestiale nel viso, a scandire le sillabe della poesia, ritmandola come una dolce tiritera da adolescenti. A un certo punto si ferma e dopo una lunghissima pausa, benissimo come l'ha detta lei, e si raccoglie in se stesso, sconfitto. E qui sentiamo l'effetto di quella preparazione nella lettura che Arnaldo Foà fa di un'opera celeberrima di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Gli altri due celebri attori sono Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice, compagni sulla scena e nella vita privata, la cui storia viene raccontata da Anna Testa, studiosa di teatro, giornalista e regista, in Buonasera Aroldo, Buonasera Giuliana, Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice, vita, carriera e scene da un matrimonio, pubblicato da BC Dalai, 214 pagine, 22 euro. E il libro contiene anche un DVD con alcune scene della lunghissima carriera artistica dei due attori e una lunga intervista a entrambi. Questo libro appunto nasce da quella intervista, è una lunga conversazione con Aroldo Thieri che ricordiamo è scomparso nel 2006 e con Giuliana Loiodice, un'intervista che consente di ricostruire la carriera ma soprattutto un modo di intendere la professione teatrale, lo sviluppo della televisione e poi uno straordinario rapporto umano fra i due partner. E il libro contiene anche una serie di testimonianze, per esempio c'è Mariangela Melato che definisce i due una grande coppia, la manifestazione della grande personalità e professionalità che li univa, o Maurizio Costanzo, il quale parla di Aroldo Thieri come dell'attore globale, uno dei pochi attori di teatro completi. Ma sentiamo le due dame di questo libro, Giuliana Loiodice e Anna Testa. Buongiorno a Giuliana Loiodice e Anna Testa. Buongiorno. Signora Loiodice, che cosa resta del modo di fare teatro che viene descritto in questo libro scritto con Anna Testa? Un'eredità che personalmente mi appartiene e che io cerco continuamente di conservare e di proporre al pubblico nella sua intangibilità. Cioè oggi il teatro è molto confusione, molta approssimazione e molta invasività, però io tento di conservare non solo una tradizione, perché io cerco di fare anche delle cose insolite, delle scommesse, però con un tipo di presenza, di recitazione che inevitabilmente, e lo provo tutti i giorni sulla mia pelle, conquista il pubblico. Dal libro emerge che c'è una notevole differenza rispetto al modo in cui si interpreta oggi la vostra professione. Sì, c'è una differenza in quanto certi personaggi che oggi attraversano il palcoscenico con molta nonchalance e con molta noncuranza, una volta non sarebbero passati nemmeno dalla portineria dei teatri. Ecco, nel vostro libro ci sono delle parole di Aroldo Thieri molto dure nei confronti della televisione, sì. Non della televisione degli anni d'inizio, quando appunto il teatro era un alleato della televisione, o meglio la televisione era un alleato del teatro, ma nella televisione, della televisione negli ultimi anni, molto sì. Volgare, con le parolacce, diceva Aroldo Thieri. Sì, soprattutto nelle interviste, nel proporre certi spettacoli trash, che poi di trash non hanno niente se non appunto la volgarità e la cafoneria anche dei presentatori, per cui certo noi abbiamo attraversato un periodo irripetibile ormai nella televisione italiana e non ci vogliono sentire. Rai Trade ha fatto un'opera encomiabile riproponendo attraverso i DVD, la presenza di attori che ormai non ci sono anche più, oppure coloro che ci sono ancora che continuano pervicacemente a mantenere una loro personalità per avvicinare ancora il pubblico che li vuole. E lei scrive nel libro che il nostro paese è un paese che non ha memoria, infatti, in cui scrive tutto è anonimo, in cui conta soltanto l'immagine, la bellezza, la curiosità, il gossip. Sì. E quindi con questo paese che rapporto può avere il teatro? Ma io credo ancora un rapporto vitale, perché non a caso quello che sto facendo io, che sono queste le conversazioni di Anna Cappa tratte da Kafka con la regia di Ugo Chiti, continuano ad avere un grande pubblico e un grande successo. Evidentemente il teatro è immarcescibile, per me non morirà mai, perché il rapporto diretto, contatto col pubblico che esiste in teatro non ce l'ha né la televisione, né, mi dispiace, la radio, né il cinema, né niente. Signora Testa, che impressione le ha fatto lavorare e misurarsi con una ditta, come viene definita nel libro, così autorevole, così importante come quella di Aroldo Thieri e Giuliano Iodice? Guardi, mi ha fatto intanto, mi ritengo una fortunata, perché come scrivo nel libro ho potuto attaccare così la mia zattera. Noi nella nostra generazione così navighiamo, brancoliamo un po' veramente in questa modernità liquida, come l'ha definita stupendamente Zygmunt Bauman. L'ho cercato di ancorarla ad una solidità. Una certa mi ha attratto anche una certa invidia verso questa coppia, per la durata come coppia, perché durare 40 anni per me è una grande trasgressione, secondo me è stato per questa coppia durare 40 anni, come per tutte le coppie diventa una grande trasgressione. Ed è stato alla fine cercare di sottrarre a loro e fare anche mio questa cosa che li ha uniti, che secondo me è stata una grande, inesauribile passione per il teatro. Questo a mio avviso ha unito, perché poi insomma le coppie o le ditte vanno avanti quando hanno un obiettivo comune. Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice hanno avuto, e Giuliana continua ad averlo, un amore infinito verso il palcoscenico, verso la drammaturgia, verso le nuove sperimentazioni, i nuovi linguaggi. Hanno attraversato il teatro classico fino ad arrivare al teatro contemporaneo, per esempio affrontando uno degli autori più significativi del nostro panorama, che è Israel Horovitz. Io ricordo questo Care conoscenze, cattive memorie che loro hanno fatto, che è un pezzo che la televisione dovrebbe trasmettere, secondo me, almeno una volta al mese. E quindi ecco, ho voluto strappare un po' a loro di questa passione, farla mia, metterla nel libro, inserirmi tra di loro insieme anche a questo DVD che ho fatto anche in collaborazione con Techerai e Rai Trade, dove ho potuto andare ad attingere ad un materiale incredibile che oggi rappresenterebbe un nuovo linguaggio televisivo. Perché ricordiamoci che la televisione è nata sul teatro nel 1954 con una trasmissione data in contemporanea a Milano, Torino e a Roma, che era l'Osteria della Posta di Goldoni, con la regia di Franco Enriquez. E ha fatto poi da traino la televisione negli anni 50-60 per l'editoria. Perché è stato attraverso il teatro mandato in televisione che poi l'editoria con gli Oscar Mondadori ha potuto fare attingere la cultura a tutti. Quindi è stata un'opera incredibile. Io dico sempre che per quello che propone oggi la televisione ci vorrebbe una Norimberga per pulire tutto quanto. Bene, accontentiamoci magari di politiche meno cruenti, ma comunque più efficaci per ripristinare questo rapporto. E intanto grazie a Giuliana Lo Iodice e ad Anna Testa. Buona domenica. Grazie a voi. E il libro su Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice verrà presentato il 21 aprile al Teatro Valle a Roma alle ore 17. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it potete ascoltare sempre le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.